Italia in controluce. Una buona giornata da Alessandra Tedesco. Oggi parliamo di Parma e del nuovo sindaco eletto nella tornata di maggio. Fa parte del Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo. Ce ne parla Cristina Carpinelli. Federico Pizzarotti è nato a Parma nel 1973, ha 39 anni, è sposato, non ha figli, ha un diploma di maturità tecnica con indirizzo elettronico, ha lavorato nella consulenza per istituti bancari e finanziari, ama l'informatica ed è uno sportivo, binomio che sfata un luogo comune. E in effetti Pizzarotti di luoghi comuni ne ha sfatati molti, il primo quello che un candidato senza esperienza politica possa arrivare a vincere le amministrative, il secondo che una volta sindaco debba dar conto ai vertici del partito che rappresenta. Pizzarotti si è infatti distinto subito per aver scelto autonomamente, senza far capo, a Beppe Grillo, anima del Movimento 5 Stelle. Sulla pagina del Movimento 5 Stelle Parma la gente scrive e si rallegra con Federico, è così che chiamano il nuovo sindaco di Parma. Federico, resta uno di noi, non ti allontanare dai problemi della tua gente. Federico, complimenti e ora non ti montare la testa. Scrivono questo le persone che lo hanno eletto. E lui, il sindaco, che fa? Dopo aver stretto migliaia di mani e aver rilasciato le interviste di rigore, eccolo lì, seduto dietro un tavolo, il tricolore alle spalle e un sacco di problemi da risolvere. Le vere urgenze sembrano fondamentalmente tre: Teatro Regio, inceneritore e partecipate. Soprattutto la società che acquista e vende lotti edificabili e ha 108 milioni di debiti. Al Teatro Regio, storica culla della lirica, di cui il sindaco di Parma è presidente da statuto, il mandato del sovrintendente Mauro Melli scade in giugno e il bilancio è in rosso. La prima domanda che facciamo a Pizzarotti è: come si sta dall'altra parte, cioè dalla parte delle istituzioni? Che sono sicuramente molto impegnativi, perché l'orario medio è dalle 8:30 alle 9 di sera, quindi però ovvio che insomma la partenza in tutti i progetti, non solo, voglio dire, nella gestione di un comune è questa, però bisogna prendere insomma consapevolezza di quali sono le problematiche, cercare di stilare anche l'ordine delle priorità proprio per cercare di affrontarle al meglio. Adesso la mia difficoltà è il fatto di essere ancora da solo. Ecco, come si muoverà adesso per creare una giunta? Ci sto lavorando, quindi tra oggi e domani dovrebbe esserci il primo e forse il secondo, e quindi poi settimana prossima comunque arriveremo ad avere metà o più di metà insomma della squadra. Sindaco, quali sono i criteri che lei userà e che sta usando per scegliere gli assessori? Beh, allora abbiamo fatto, prima di tutto ci sono arrivati centinaia di curriculum da tutta Italia, ovvio che noi il gruppo, soprattutto perché io arrivo nelle fasi finali, diciamo, valuta quelli che hanno le competenze necessarie per diversi assessorati, diamo comunque una valutazione sia di merito, cioè nel senso sulla base del curriculum, ma anche di insomma essere di Parma, perché evidentemente chi meglio di chi è di Parma, a parità dico di insomma di curriculum, può affrontare le tematiche insomma della propria città. Quindi quando si arriva poi ad avere 3, 4, 5 nomi, dipende dagli assessorati quando ce n'è di più o di meno, li incontro anch'io, perché è ovvio che poi sono persone che dovranno lavorare a stretto contatto con me. Quindi vale il curriculum e vale anche, diciamo, quali sono i temi, le domande che lei fa per capire se è un assessore, al di là del curriculum, della competenza, eccetera, può lavorare con serenità con lei? Beh, allora, a questi incontri ovviamente, a seconda delle tematiche, non vado mai da solo, perché ci sono sempre le persone che nel gruppo si sono occupate o hanno le competenze insomma per discriminare insomma sul bilancio piuttosto che sull'ambiente. Io faccio solo, come dire, io cerco solo di valutare quello che inevitabilmente è un rapporto che dovrà essere personale, nel senso dal punto di vista del lavoro, quindi valuto come si approccia alle nostre tematiche, valuto come si pone anche nei confronti degli altri, cioè più a pelle, potremmo dire. Sa che questa è una cosa che è stata molto criticata dalla politica tradizionale, invece è molto amata dalle persone, no? Questo essere fuori dallo schema politico e scegliere le persone proprio per le competenze. Ma infatti, voglio dire, penso che sia invece un valore aggiunto, perché voglio dire, usciamo da quello che è la logica della lista, del partito, del movimento in ogni caso, proprio perché entriamo invece in una logica di competenze, insomma, nel limite di quello che si può fare, perché ovvio che non è che possiamo dire di aver scelto quello con più competenze, però ci proviamo, che già questo invece normalmente quello che vediamo è un affidamento tante volte non per meriti ma per una scelta politica, e tante volte anzi con persone che non trattano l'argomento a cui dopo poi saranno delegate a trattare. Quindi tante volte abbiamo visto, voglio dire, l'architetto al sociale o il filosofo all'urbanistica. Quello che facciamo noi è scegliere le persone per competenza, anche per potersi raffrontare bene con chi? Con le persone con cui si dovranno confrontare, quindi le associazioni e quant'altro. Sindaco, un'altra domanda. Una volta fatta la giunta, quali sono le priorità secondo lei da affrontare per la città di Parma? Beh, le priorità sono sicuramente quella del bilancio. Adesso noi abbiamo bisogno di revisionare quello che, non tanto il bilancio comunale, comunque verificarlo, ma soprattutto il bilancio delle partecipate. Quindi verificare e mettere in sicurezza, insomma, stabilire una strategia, tante cose sono già state fatte anche dal commissario, ma stabilire una strategia di uscita che possa dilazionare il nostro debito, che quello c'è e va gestito nel tempo. Questa è la priorità maggiore, proprio per mettere in sicurezza tutto il comune e le attività del comune. Poi c'è da gestire, dopo aver messo in sicurezza, ovviamente un livello dei servizi sociali che, voglio dire, da Parma sono sempre stati molto elevati, bisogna mantenerli tali. Quindi un'attenzione a quello che è il sociale, il problema delle scuole, anche insomma, andando a vedere se le spese per i diversi servizi sono adeguate. E poi ovviamente per noi c'è il tema dell'ambiente, quindi quello dell'inceneritore, perché va trovata una strategia di uscita per non finirlo, per riconvertirlo e quindi per non accenderlo. Il terremoto come ha creato danni? Ci sono stati problemi grossi? Non ce n'è stato nessun danno, anzi mi ha dato la possibilità di confrontarmi anche con, insomma, la gestione di... Non è stata un'emergenza dal punto di vista, non ci sono stati feriti, non ci sono stati danni, non c'è stato niente, ma di confrontarmi comunque con quello che, come viene attivato tutto il presidio di sicurezza in casi di questo tipo, in modo anche da essere pronti in casi ben peggiori, che ci auguriamo sempre che non capitino mai. Pizzarotti, seppur senza esperienza politica, ha dunque buon senso, e questo è sicuramente ciò che serve quando si amministra una città di 180.000 abitanti e milioni di debiti, una città, Parma, che è stata commissariata per un anno. E per questa puntata di Italia in Controluce è tutto, ci risentiamo domani mattina alle 6.30.